faccio tocca a me, li faccio, domani vediamo, lo apro e mi regolo la cauda, ecco, perché anche lo stava regolando, e tracce la voce che sta andando più che bene. Sicuramente non va bene come registrata, ma bisogna riaprirlo per fare le prove magari con te. E l'altra volta abbiamo messo apposta con te. Ai, ai, è fa. Vabbè, però fammi la barba, che c'è anche Luca la prima. Sentivo a Franco, sentivo a Gian Maria, ho sentito metti il tappo buono, ma che ti sembra quella brutta, ma arriva a mettere il 50 tutto in un canale. Sono arrivato al punto che non capivo più niente. No, erano solo splatter e basta, perché sono sul 3. Comunque, ti stavo dicendo, in questo programma c'era un presentatore che diceva che la lattuga era afrodisiaca, si mangiava la lattuga praticamente aveva uno stimolo sessuale, là. E contemporaneamente un altro canale, un altro diceva che gli devo mangiare male la lattuga prima di fare l'amore perché sennò si fa frociare. E gli esseri battesi mi ha detto, intanto verdura, intanto la lattuga che hanno parlato, non se ne è capito un cavolo. E a me mi pare che dicono tante scemenze, pur di parlare, non c'è niente di coso, perché molti si credono di fare bella figura e non sanno che poi c'è qualcuno che li registra, tipo se c'è la notizia, e sta un anno pigliandoli per il culo. E poi li confronta uno con l'altro. In un canale uno dice una cosa, nell'altro la stessa, un altro diceva il contrario. Dice a chi dà la retta non se ne capisce proprio un cavo, in mezzo a questa verdura non se ne capisce un cavo. E KK già, purtroppo succede così. No, io oggi sono andato in comune e stavo parlando con alcuni che sono lì, che appartengono ai cantieri e cose, no? E ho detto, ma ero che siamo in Italia, tutti si fanno bene in televisione, che gli italiani hanno diritto di questo, che hanno diritto di quello, che hanno diritto di quell'altro. E ti dico, cazzo siete brava a pigliare a fare un culo, e io ti cazzo siete in televisione, ma un altro mese, lascia casi. E non ha capito una cosa, ma a parlare da un cazzo italiano non ha capito, e qualcuno che piglia anche lei mi c'è evidenza. Dice, ma io noi che colpa ne abbiamo? E allora come che colpa ne avete? Siete voi che fate il numero di un cattivo tempo con tutta la vostra politica, per carità. E si dice, ma non ha questa mi c'è evidenza di base di me. Perché la mia scelta quando io trovavo a Canaria Biso di starsene a parlare, pertanto parlano, le parole volano, non si dice di essere rilassati. All'obbligati siete. Perché tra parlare e concretizzare le cose è molto diverso, tanto fa. Tanto tu, che va la ragione di un cadoma. Ma io di che? Senta, voi vi sento massimi, sento te molto bene Gianni, gli altri, quando parla Franco vi copre, gli sbratti vi copre, gli lasci pompella tutta là. Non so. E gli si va molta gente, forse perché tiene il microfono un po' alto, questa vita non glielo fa Franco, non c'è problema. Con le dovute maniere le cose si fanno volentieri, no? Mi sei stato tu già per abbassare il microfono che mi stai disturbando un altro canale. E lui ti dirà, vabbè non c'è problema, lo abbasso adesso. Non penso che Franco faccia tutto. E pompa quel microfono, quando l'ha modificato pompa un bel. Capo, se ti sto dicendo loro, sono una 30, mai detto. Noi siamo su 10, a 20 canali di distanza. Mi serve da di tutto. È bello che mi faccio lì anche la nuova lo smetter. Deve essere che c'ha fuori un bel. Se li misurava a lui l'altro giorno mi trovava un bel. Agappa, cosa ti vuoi fare già? Sì, purtroppo è così. Bisogna essere un pochettino più coerente, perché dice che quando ci allarghiamo troppo rischiamo di disturbare la frequenza, cioè quello che è stato detto è, poi io non ne capisco una massa, quello che sono ignorante in materia, non posso dire più di tanto, tutto qui. No, io il toccare non lo sto usando perché ne vado a fare l'osservazione anche a me. Entravo nei 10 metri chiaro chiaro, quindi non l'ho più usato assolutamente perché ho chiesto scusa, che non mi ero accorto di una cosa del genere, se non l'avrei mai usato. Dice chiaro chiaro chiaro, ma non so se ero io, se non ero io, può darsi che fosse manco io. Dice che se gli sembravo io, quindi è possibilissimo, non è che l'ha fatto così. Comunque, tutto K. Cari, ma c'è qualcuno parlando? Perché con Franco sento a lui, ma non sento gli altri. Chi c'è? Antonio? Riserva qualche altro? No. C'è da solo Alessio. Non so se si abbia fatto, perché mi sento sparito. È come Gaffer. C'è una Gaffer, Alessio. Insegnava la cosa sempre la stessa cosa, quindi non andava mai avanti. rispettivamo tutti lo stesso programma, quindi non siamo mai andati avanti in matematica, infatti la matematica è stata sempre scadente. Anche mia figlia in terza media, in terza media anche lì, no, ma mia figlia, ma non la qui. No, io un po' di meno, ma già studio anche io, quando ne ho voglia. Mia figlia c'ha tutto ottimo. Sì, ottimo la parte di sotto. Ottimo la parte di sotto. No, già va bene a scuola, grazie a Dio. Il carattere che no, mi fa giuncata un bel, è molto sorda. Ma io, spegnete i baracchini, dai. Oh, si è cambiato qualcosa, dai. così, ma va bene. D'accordo, grazie. Tutto, abbiamo tutto avuto carità, io non capisco questa gente come faccia a vendere queste cose. Vabbè, comunque adesso è a posto. E infatti dopo entro su internet, adesso c'ho il computer sulla PRS, dopo entro su internet e praticamente glielo faccio questa cosa. Dai, riprendi, Tino, riprendi tu e fai girare per Mario. Beep, beep, beep. Thank you. io vado a caricare. Non mi desistero mai, ma ce l'ho scritto. Gappa, gappa. Va, buona. Sentiamo dopo, allora, là. Ciao, ciao. Alla, alla. La differenza tra questa e l'altra, questa qua e l'altra, com'è? Non è che stai dicendo lui? Sì, dai, sempre una sì, dai. No, ciao, va bene, ciao, già, buona carica, ciao, che te, però, scusa, non ho capito se stai andando a recare anche tu. Ma in confronto, tio, sai più male, cioè, l'altra è più forte, come, non lo so, boh. Ce li ho qua, però mi devo comprare un qualcosa per come si chiama? Quel tassino per mettere l'antenna, boh. Ah, il commutatore di antenna? Il commutatore di antenna, sì. Si chiama disinfettante, ma come diceva, poi la presa, ma

stai parlando? No, io non vedo niente, mi vale quanto lì. Yeah.

come ci arriva il microfono te ne vai a fare un culo. Ciao, ciao. Positivo, positivo. E di cosa fra? Di fuori questo colore di sassa? Andrà bene, che è? Avanti fra. Cugino tuo e tu. Anche tu vanno a riserva. Non ci penso nemmeno, guarda. Non lo so da come reagirei. Dai, sono Valentino, oggi si scherza. Ma è una sorpresa che stai facendo. Queste sono le sorprese belle. Anche io le facevo a mia moglie 25 anni fa. Solo quando mi vedeva, non c'è il cazzo ci monta a fare qua. Contento tua moglie adesso? Eh? Guarda, penso che sei contento quando sei in ricordo di queste cose. È contentissima, guarda. Guarda, vedi? Sì, più contenta di così. Sì, ci sono sotto, ma anche sposata, sì. Lo dico pure mia mamma così, lo sai. Anna, fai una cosa, mettiti le unghie finte e graffialo dietro la schiena. Vedrai la prossima volta se ne ricorda. Allora, tutto lo che PC, mi ha detto, guarda, c'è un problema, c'è un virus. Ho detto, sì, sì, guardi, c'è un virus, ma lo devo lasciare. E quanto ci vuole? È un'oretta. Va bene, ripasso. Dopo un'oretta è tornata, dove c'era? Guarda, c'era un Viagra più grande di te. Sì, ma c'è un Viagra, è un virus un bel potente. Che se dico il violetto che non è altro? Thank you. sarebbe? Come va? Ottime condizioni estetiche, eccetera eccetera, e mette la fotografia, andò a guardare la fotografia, la ingrandisco, era tutto graffiato e gli ho scritto, avevo già lanciato, io non gli ho scritto praticamente che non andava bene così, che lui doveva scriverlo che era graffiato non in perfette condizioni estetiche, che per questo motivo io ritiravo la mia offerta, capito, che non mi interessava il microfono così, se non mi ha risposto di fare ciò che volevo, che certo che un microfono a seconda mano non può essere perfetto, ma tu non mi puoi scrivere che è perfettamente in condizioni estetiche perfette e poi che non è così. Brutto caffone che non c'è altro. Eh? Ma mamma mia, oh. Vabbè. Ma mi prende a me? Ma mi la confonda che ci sei tu. Lo dice. si muove, ti manca manco una vita che ci riesce a fare, mi cura di più. La cosa che è un sito, un apparato, cos'è? La caretta? No, è un barattino. Ti prendi Mario? Già ha fatto la fare lo stesso, là, in mezzo a tutto il coso ci ha fatto la fare stesso, perché c'è sempre che sia un apparato buono. Me lo dici, lo pigliamo in considerazione ugualmente, però non la pigliamo in giro, anche perché lui adesso ti potrebbe scrivere e dirle guarda che sei un gran futtivecchio, perché non era come hai scritto, tutto lì. Però sembra che già vada bene, la Franco, quello che ho sentito, l'ha pulito, l'ha fatto e va bene. Non è così claro. San Valentino, oggi è faccio piano, anche se no la moglie la ragazzina può essere quasi un bel mese di più. Tutti pieni di regali, tutti pieni di regali, che la vostra consorte va regalata a tutti qualcosa. Io ho regalato l'amore a Rifemini. Poi io ho regalato l'orchidea, lì mi ha regalato la bolletta da parlare. Tutto qualcosa ti ha regalato. No, a me è una bella scatola di baci. E io purtroppo non sono potuto uscire quest'anno, non ne ho fatto il regalo, ma in compenso l'ho presa per la gola e ho cucinato e quindi ti ho fatto mangiare la roba liquida. Va bene, qualcosa quindi l'hai fatta. Io devo fare stanotte. E io ogni anno glielo faccio regalo a fatti stessi, però quest'anno come facevo se ero malato. Vabbè, dipendete che sto saldando. Sempre svegli, sempre svegli, sì. Avanti mai. Kappa. Vabbè. Grazie a voi, là, che vi consolate. Andà bene, là. Non c'è problema. Archimede sempre a Parenti. Addio, Franco Archimede, sempre in opera, sempre bene. Noi la Kappa mai un minuto giovemmo. Non prendete compare l'Antonio. No, Mario, io quando ho intesa una cosa la devo fare. Posso rimanere anche tutta la notte sveglio, però ci vuoi riuscire. Studio. Kappa, va bene, riprendi, principessa. E tra un po' vi farò vedere la mia modulazione nuova. Ciao. Uia. Se la sta giocando qua. Lui ci obbedisce, solo che da me fa se lo vediamo, no? Sì, casa, di tutto di più. Scappa. Io avevo 127 di serbare un trattore. Penso che sia lo stesso motore, no? Scappa, scappa. Ma cosa era nuovo quella bellino, dai? Io d'estate con mia moglie se ne sposate andavamo ai campeggio, caricavo un po' di roba, era troppo in lusso, ma pure avanti lo vedo. Vabbè, mettiamo anche noi con me, sai che siamo qua. Interessante è andare avanti. Finché va avanti la vai andata a bilanciare. Piccolo. E lo metto qui a te chi, ma l'ha già fatta apposta io. Ma vabbè, dai, per questo giro mi spazzano, vado per pigliarti la bici, vai. Ah, Gianni, oh, dimmi. Quando si faceva la ruota, adesso siamo in pochi, ma io con la ruota contante, io non c'ero, diciamo vagamente, mi ricordo perché l'ho sentito quante volte, quando c'erano 10-15 persone, per fare la ruota c'era qualcuno che prendeva la punta. Sì, è vero. Carta e penna e scrivevano tutti i nominativi. Poi si rilanciava nominativo per il nominativo, li facevi un trattino, oppure ok, quello che volevi scrivevi, come dire che l'avevi rilanciato, poi si aspettava quello, quando faceva quel ritiro cancellavi, segnavi quello che rientrava, sì è vero, c'è il caporuota. E allora no, il caporuota è tavola, così è. Sì, a chi, quando c'è tavola è tavola, quando ci sono gli altri, non è che... Quando ci sono altri tante volte succede anche casino, è vero. Ma ci vuole sempre uno che guidi un po' la situazione, sennò succedono le confusioni, le incomprensioni soprattutto. E ma tanto c'è gente maleducata che entra senza break, non rispettano più come prima si faceva il break per entrare, quei reti quando chiudevi, saluzzoni, 7351 tutta la ruota, 88 all'YL, eccetera eccetera. Adesso non si usano più certe cose, non, se non vinci magari ti bilanciano un bambacco, capito? Eppure è un gergo che si usava molto prima, c'era più rispetto, uno se per dire stava parlando, non entrava nessun altro a sovramodularlo, là, tipo si gheggiano i vasili, sono più forti io, sono più forti tu. Avanti. Ciao, sono Francesca. Francesca, che bella voce che c'hai, sensuale. Vabbè, fa culo. Oh, ciao. Io gli ho fatto la proposta a Luca, visto che è un grande imitatore, mandava la gorilla. Come il Cossiddu? Allora, non è il Cossiddu che ha fatto venire a tutti. Come tu dici il Cossiddu? Questo è l'allenamento, era. Allenamento. Vabbè che lo sappiamo che è Marco, ma... Oh, ma mi sentite? Yeah. Ah, ecco che posso, cioè. Questa è quella radio, è superstar, 39. Ti è occupato qua? Come si arrivano qua? Io proprio... che va bene anche questo. Dice fatto, 15 watt fissi, Roba? Prova, prova, ma va bene. 9, 9, 10. E io? Uguale 6 watt. Cazzo, sono una potenza. E beh, va bene, ti. Ok, dipende da Roberto. Ciao, ciao, ciao. sentito, solo col portatile, magari mi senti più in basso. Ti sento, continua. Tu sei salito su Salvatore? No, negativo, non ce l'ho fatta, e non messo a pagare nulla, quindi da una cosa all'altra ho finito tardi, non negativo, niente. Io ero curiosità di questo, di lanciare tagliate per un buon frise, ma io gioco con te. Thank you. Ok, questo in legge, come è questa radio? Ti piace? È molto stillante. È un po' metallica mi sembra, ma già va bene, già è alta. Ha un po' di metallico. Ma questo è l'altro, eh. Adesso lo uso un po', se no si forma anche con la polvere. Aspetta, allora, adesso mi dice anche che mi ha scappato un pochettino, a parte perché siamo un po' troppo alto. Ciao, ho visto il tragedio, dopo in Magicana, sono di nuovo a stasera. Truncato. Già, piano piano. No, sono qui, là, sto... Anche io non viene molto a cuore, sono stanco molto. Sono in grado di questa apparizione, ma si è a posto là? Sì, ho sto sistemando già da una parte, non c'ho più posto, cazzo. Non so come vengo, alla fine, veramente bisticcio anch'io, perché sto sempre sollevando piano, per accendere la prima devo fare i piri. Tra poco vorrei buttare la diretta da Gadri a due. Carità. E io, poi già, ma anche tu mi hai detto che stai proprio in sovrenza dei falsetti, eh? No, no, no, no. Io sono sempre nello stesso ripiano, ma lo voglio organizzare. E vabbè, fatti bene il ripiano. Il ripiano adesso ne ho due. Ne ho due e poi ne ho altre tre. E sono cinque. Sì, ma sono fermo. Mi piace, me ne piace uno. Mi piace il Galaxy a me. Però, mi tocca a Briabba, figlio mio. Vabbè, guarda che se invece c'era, mi ce ne sono due. Io già li ho visti, che non li addocchio io. Li ho adocchiati già, ma mi sa che non fa, mi affida già le tre. E quanto è caro, quella palicchia, non è che lo vuoi prendere. Però guarda che uno, se hai letto, l'ho capito che c'è con l'alimentazione, diciamo, non avverrenti, eh. Già appurato. No, funziona, c'è 220 che è la cosa. E ho detto l'alimentatore trasformatore interno della 220, sì. E ho trovato il trasformatore. E quindi hanno messo due fili che escono fili che vanno all'alimentatore esterno. Che a me prendere sfasciati, io si riprende li prendo nuovi. Dopo intanto si buona bellina, va con sale e la stessa cosa. Vabbè, quello che era l'altro che invece dice che è perfetto, che differenza di 100 euro però, eh. Cazzo, ragazzi. Tu l'hai mai provato il Galaxy? Cosa va più? No, io ho il fratellino più piccolo. E guarda, per me funziona bene, chi ce l'ha poi? Nel mio titolo, parla bene e parla male. Tutto cromato, pomelli, contadino, tutto. Ecco qua, uguale al typhoon, vero? Sì, sì, sente meglio il typhoon, non cambia niente, le bande, le cose, uguale, stesso trovo tutto, la fare SVR, cala, uguale, preciso niente. Solo che si ripeto, perché c'è tutto nero davanti, è cromato. Io preferisco nero. Vabbè, comunque mi ha detto che praticamente il circuito è quello, poi in più ci sono tutte le altre strumentazioni, ecco, è un bel apparecchio, funziona bene, non puoi prendere anche quello senza trasformatore, perché tanto trasformatore o si crea oppure si compra, cos'è la 25 euro? Sì, ma è il trasformatore da 110. Dall'interno, boh, non so da quanto sia. Non già che sia da 110, non ti voglio dire una fesseria, ma mi pare che così, boh. Ma io ho un modo strano di giocare, io gioco sempre all'ultimo. Ah, e capo, fai bene. Oh, francamente, costa di più, ma c'è anche un 4,40, l'hai visto? Via. Lo so, l'ho visto, mi piace anche, ma è senza microfono, Claudio. Di acquistarlo, controllare il filo di tutto quanto, se è tutto a posto, che io cerco senza microfono e da lontano non lo posso provare con l'apparecchio, e con l'apparecchio lì c'è sempre per gli studi. Importante, vado sempre tutto in positivo come sei, perché il tuo è modificato. Già, io per poter avere questa radio in queste condizioni, allora il lire avevo preso 340.000 lire, oltre al costo della radio. Però con questo taglio finale io posso usare un'alimentazione anche a 16 volt. Paga e per rendere stati i diritti normali, per rendere lì. Infatti dicevo, se per caso io l'ho fatto che con 100 watt e l'altro giorno stavo quasi lì e mi scrivono che usciva con 40 watt e ne dava 100 in la banda laterale. Questo è strano, ma se caso dice che 100 pure glielo voglio chiedere. Senza la modifica è un apparato che tira fuori 70, 70 watt, 80 watt, ma proprio deve essere allineato bene. Questo mi dà, in banda laterale addirittura passa 200 watt. Già va bene. E invece quello di tira normale. Ma quello di tira è abbastanza spinto, ma non è quanto quello. Non ce n'è neanche uno in queste condizioni di radio così. Manco a apprezzarci. Perché era una modifica che praticamente aveva sperimentato Carlo, CH23 di Chiaramonti. E aveva fatto il mio e quello di uno di Alghero. In così, con lo stadio finale da 940. Li abbiamo sperimentati, insomma, il mio è andato sempre bene. Io non so, ripeto, che differenza abbia il mio con quello di Dino come radio, ma io mi ascolto e a volte mi spavento, dico, ma è possibile che questa radio abbia tutta questa grinta? No, la tua è più forte, senza dubbio. Ma anche quello di Dino già si fa valere. Siete quasi vicini, dai. Tu sei più forte, però anche qui non si salva bene. Va bene anche quella, non c'è problema. Però, no. Chi c'è? Anche Mario c'è. Sì, avanti Mario. Tu Mario deve essere fatto quel ripito. Capito. Ho sentito che stava parlando di sovramodulazione, ma non capivo cosa diceva. Volontariamente, forse stava parlando di sovramodulazione, forse se ne stava andando. Non lo so. Mario, ma sono tornato. Caffa, no, magari si è allontanato un attimino già. Comunque, anche questi cavoli stiamo bene, perché io mi ricordo che anche quello che c'era il 140 già, saliva tranquillo, saliva abbastanza per essere anche a Pianoso, non è che fosse, e saliva abbastanza, anzi più si andava già e più saliva e più tirava. No, va bene, Kenwood, guarda, poi 440, ripeto, io è veramente l'apparato giusto. E una cosa vuol dire, dica, a parità, ecco, sulla via Egio, quale sa la parità del 440, come super giù struttura per questa frequenza? Ce li ho tutti, quelli che mi mancano li ho già usati, ma come prestazioni in AM a parità di 440 non ce n'è neanche una. Prestazioni, dico, chiarezza di modulazione, potenza modulata, nel senso che tira tutti i watt, perlomeno i watt che quando la vedo, perché le radio chiaramente devi modificarle per la M, quindi questo qua secondo me è quello che dà più prestazione. Io su quelle che ho trovato non ne ho trovato neanche una con abbassiamo un po' con prestazioni superiori a questa, non ce n'è. Non ce n'è, e quello è della fermata che fa, io mi subisco niente, non riesco proprio non c'hanno un apparato che fosse, ecco, almeno se l'avessimo c'è un 440 140, è un proprio il pensiero è quello che faceva, che il 707 non lo come fa. Lui c'ha i 30 watt su e tu sollevi il carrier, no? non c'è scritto niente da fare, più di quello non sarà, il vano è negativo, la movazione è cupa, come C60, che poi c'è compressore, processore, c'è mille cose, non ricordo, non sono mai riuscito a regolarlo, mai. Thank you. una colonnina, un autoparlante sull'apparato, la Optoma, e poi mi vai a ricevere con un portatile, con un autoparlante di quelli da 2,5, è chiaro che la ricezione è qualità prezzo, è chiaro che è più alta, superiore a quella di prima, tutto lì, però il microfono c'è un po' lo stesso. Avanti Franco. Ok, sono rientrato, sto provando il microfono. Come va? Non lo so, anch'io, sai, non, essendo aumentato siamo tornati un attimino. Ok, io ne approfitto, me ne faccio 5 reti che non me ne vo. Devo riuscire a lavorare un po' prima che ci dovrebbe svegliarmi. Devo alzare un po' più presto. Ok, faccio un saluto circolare a tutti, Claudio, Franco, Roberto, Gianni, Claudio Sanchettino, guardati per me, ci sentiamo domani, io qua. Ciao, arrivederci. Ciao Franco, grazie per essere intervenuto, quando vuoi siamo qua. Ci sentiamo alle prossime, avanti Roberto. Ciao Franco, mi hai sentito, alle prossime, ciao, buonanotte. Ciao Franco, ci sentiamo, va bene. Ciao, sono Marco, ciao Toni, buona giornata a Pogolani, ci sentiamo alle prossime. Chi c'è rimasto? Vabbè, ripubblica. Ciao, la poi è piena di gente, chi c'è Latino, poi, non me la metto più, c'è del Varione. Delle 300 c'è. Ah, già, ancora di qui. Ciao, sabato ci sentiamo alle prossime. Ciao, Antonio, scusa, ci ho anche salutato, ciao Toni, ma ci ho messo. Cambiati la virgoletta. Ciao Antonio, buon corretti. D'accordo, siamo domani mattina dove? San Francesco? La cosa mi stavo dicendo. Buongiorno. Voglio mettere questa canna in bici domani mattina, ragazzi, non ne ho voglia. Sì, ma dai fastidio, Sì, tipo quelli di pessimismo per fastidio. Devo staccarlo un attimo, non posso fare altro. Purtroppo devo staccarmi. Come purtroppo? Meglio quando non ce l'hai. Se lo stacco molto più ci sarà, no? Non c'avrò il bip, ma manco l'apparecchio. Va bene. Non credo che non piaccia solo a me. Guarda, secondo me Claudio è l'amore pure il bip. Andiamo assieme a Carbonazzi, voglio vedere se ce la fai mettere in culo. Guarda, ti giuro, se ne togli il bip mi faccio tutto via Milano a culo nudo. E allora mi sa che ti dà la scommessa che lo farà davvero. Oh Claudio, guarda che io ti seguo con la cerepresa, A te togli il bip, dammi. Non devo togliere il sito, vale. A te? Sì. Devi sentire un po' prolungato il bip. No, ma è bello che devo attaccare questo e attaccare l'altro al nuovo apparecchio che mi è arrivato, a 140. Come piace questo? Che ne vuole l'altro, ne vuole che l'altro e vuole l'altro. Scusa, gli apparecchi come si fanno? Ma uno ce ne esce un altro, no? No, così non va bene. Capito, se davi quello per prendere un 440 è davvero bravissimo, ma la ricerca per il 140 è più selettivo quello. Sì, ma il problema è questo, che quello che c'è in questo apparecchio è l'M, l'altro che mette a 140 è della Intec, quindi deve cambiare il culo nudo, non cambia nulla. Perché? Qua più toncia. Io sono davanti, dietro a Claudio con la cerepresa, che deve attraverso a me. Io comunque stacco i bici e lo do a collo, a Franco in mano, a quello della Lemme. Io invece dall'altra parte c'ho il 140 con il bip della Intec, l'FB4. Oh là, ma tu per Milano, come sta? Tutta, qui da Castello della Montessa. 100 metri, facciamo una trafetta. Il primo che arriva si deve inchinare, però. No, te lo fai da casa tua fino ai Castelletti che ci sono di fronte alla caserma. Tu ci marrisci, Fai i tuoi solo. Beh, ti faccio 50 metri, No, non mi conviene, che tu dici che c'hai le bordure, dici fermi, no? Guarda che ha fatto il culo, c'è anche il figlio di furia. Ragazzi, la furti, c'è la butta. Come la butta? C'è la butta di quella qua. No. La butta la prendi lì. La butta, la prendi lì, la metto. E come fatti pensare, che c'è la farmacia vicino. Per carità, vabbè, spero che ci Io la situazione secondo me è utile, magari adesso non è importante, però in certe situazioni sì. E il coro me lo usano per chiamare quello esagerato. Ma tutti l'hanno inventato la verità, perché da voi sulla usa, da brutto il gioco. Vabbè, ma non c'è questo problema, capito? Sono tutte attività diverse, te l'ho spiegato. Oramai è tutto diverso. Prima si usava, mi ricordo, quando si facevano collegamenti in banda laterale, si usava BIP per praticamente far sentire quando uno terminava di parlare, capito? Perché in banda laterale non è la propagazione, i rumori, eccetera. Quindi il BIP era il finale della conversazione, no? Ci sentiamo domani, se coincide. Divertite, va bene? Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ti sentiamo. Ciao, ti buonanotte, ci sentiamo al prossimo, vai già. Già, ogni tanto vediamo un colpo di sonno e poi ci c'è da Giovanni. Mamma mia, c'è il lungo che avevo fatto il giorno lui. Riprendi il tuo robe, dai. Ciao, ti do alle prossime, ci vediamo. Ciao T, buonanotte e buona giornata per domani, sono passato con l'altro per subito chiedo il microfono. Ehi, ciao, ciao. Gli apparati che c'hai tu, questi a testa, non ne hanno di bip, ecco, cose varie. Ah, ma esiste, vabbè, sono apparecchiature amatoriali, non te ne vai un bel, ecco, dello bip. Capisco, non che ne vai una, però pensavo magari, cioè se ci sono delle schede a parte se te le vuoi mettere. Ma no, non esistono. È rovinare le cose, dai. Ah, poi l'ho fatto scherzando per far sì che quella radio che ha si assomigliasse agli altri e poi l'ha lasciata, non ti credere che è mezzo capo quello. Appunto, diglielo, come me la vado, te fatto in diretta in FM io. Allora, è amico di Cicciolina, mi ero quello. È aprile. Vabbè, comunque la casa tua, beh, ho visto l'antenna, cioè la casa mia ho visto l'antenna tua, la verità, e tu la casa mia vedi anche la mia, è per questo. Perché siamo vicini, sì. E anche a te c'erano due CB che parlavo, due ragazze, madre e figlia. Poi c'era uno che non voleva dirti niente, perché se no sarebbe a parlare, a fare malizioso, però ogni tanto c'era uno che si faceva la mamma e la figlia. E proprio sopra gommista che abita quella, c'è un'antenna se non te la ricordi. Sì, me lo sta dicendo anche Claudio, però non so di chi sia quell'antenna, non riesco a capire. È di una tipa. Urlava la mamma da una parte e la figlia dall'altra, poi siamo riusciti a scoprire dopo forse 7-8 mesi che erano tutti e due stati così anche la verità, perché avevamo due antenne e urlavano tutti e due assieme. Sì, che un giorno è capitato che abbiamo capito che una parlava da una parte e una dall'altra e ci eravamo vicine. Vedi, l'ho detto l'altra volta io, mi ha occupato un antenello, questo segnale, pure rompevo le scatole, capito? L'abbiamo criticato, era lì, quel barato l'ho detto io. Boh, mi devo informare chi sia questa storia qua, perché io ci abito da sempre, qua quel palazzo è venuto dopo, molto dopo di quando abitavo io. Però l'unica persona che conosco che modulava di lì, adesso non esiste più, purtroppo è deceduta, ma era una donna, adesso è morta a 50 anni, una persona veramente in gamba, seria, ma non credo. A meno che non ci siano altre persone che modulavano. Guarda, io mi ricordo come c'è Tantonello, che lì c'era sempre Ciabotto, sempre, se tutti i giorni c'era un casino nero. Me lo ricordo perfettamente, perché gli unici che poi siamo rimasti calmati a trasmettere siamo stati io e Antonello, capito? Quindi praticamente dettavamo legge in questa zona. E mi ricordo perfettamente che ogni volta che noi eravamo sui 14 parlando, non senti niente, e io passavamo, lui parlava sul 21, poi si spostava, poi prendeva colpi da Antonello, da me, allora veniva a metterci la portante, ed era sempre da quella casa, sempre. Ma lui mi sta parlando di donne, tu mi hai detto di di maschio, di un tipo. Ehi, c'era un maschio e donne, ti ricordi a te? Erano due donne in uno stesso appartamento e questo si faceva prima la mamma e la figlia. Il tipo che sta dicendo Claudio era un ragazzo che lavorava in negozio qui al corso, negozio di abbigliamento, ecco, mi ricordo un attimo che ci aveva e abitava, mi sembra, un piano ambiente, non mi ricordo, però era talmente innamorato di una e l'altra che si faceva un buon dopo l'altra, si poteva abbottare, ma è Claudio. Ma questa non era sposata, non aveva marito. Ma lo so se aveva, se era vero, ma la vita non lo so, però erano tutti e due, cioè finché i primi giorni, cioè sentivi una, poi sentivi l'altra. Finché non ho capito troppo, dopo un po' di tempo, però ti ho lo stesso appartamento, si aveva ballo guru, hai capito? Prima si faceva una, poi si faceva l'altra, questo qui fatto a furbo. E Rita va insieme a queste qui? Non è che abitava assieme, abitava, non so se era Vero Alberto, all'inizio di Vero Alberto, adesso non mi ricordo esattamente, però lo faceva così. Si metteva la portata, era talmente innamorato che si vedeva tutti e due. Capito? Comunque, vicino a te, nella parte di fronte, a Matteo Rossi, ci abita, dove c'è la parabola, l'ultimo piano, ci abita un CB, ci abita, che c'è un circolo, c'è una Peugeot rossa, con l'antenna del banacchino, c'è tocca a porta. Non ho capito, ripeti l'ultima parola, scusa. Ho detto vicino a te ci abita uno che c'ha il circolo, c'ha una Peugeot rossa con anche la ceto capotta. Quello c'ha un circolo, quello qua non c'è da dire con quelle due. Abita un po' più su. Lui abita sopra di me, non è una Peugeot rossa, è una Ford rossa. Sì, una Ford rossa, esatto, sì, esatto. E così, infatti, quello si chiama Mario. Sì, ho capito, ma non c'è il baracchino, quello che ho visto c'è l'antenna, ma non sapevo c'era il baracchino. C'è il baracchino anche lui, solo che ce l'ha in macchina. Non l'ho preso in casa e ancora non l'ha piazzato. La moglie non l'ha fatto piazzare ancora. Cappa, quello lì è cosa, camionista per fare, no? Sì, è il camionista quello, comunque. Cioè, c'è il circolo su la barghiera. Posso benissimo, ho abitato per lì, ma te lo sto dicendo. Però non riesco a capire chi state dicendo tu e Claudio, perché io non ho nessuna idea. Quello di fronte a te, di fronte a te, dove abiti tu, c'è l'antenna che è tanta bisestrata, sotto gommista. Lì abitavano queste due, c'era la mamma e figlia. Senti, ho capito dove l'antenna, so dove l'antenna, l'abbiamo vista con Claudio, soprattutto, però non riesco a capire chi sia. Come dimmi a me il nome di una persona. Non me lo ricordo più io. No, ma non lo ricordo neanche io, Robert. Io te lo conto, ma detto che era morta quella signora, ho detto, ma mi sembra possibile che non avesse figlio, io ho detto, allora modulava la figlia, io tu mi hai detto, figlia non ne aveva, però sicuramente qualcosa sotto c'era, perché questa ragazza abitava lì con quella signora che è morta, capito? Sono sicurissimo. Perché io sono andato lì a vedere e c'era questa ragazza lì con l'appartamento, lì c'era questa ragazza e poi è uscito questo ragazzo, questo che stai dicendo Antonello, e ti ho detto che il giorno non ha preso schiaffi a bocca perché eravamo in truppi, se no guai, capito? Andava lì a rompere le scatole, lui ci faceva la madre della figlia e poi o si imbriagava, o già nel gioco si attaccava al baracchino e rompeva le scatole, a me Antonello e altra gente. E un giorno mi sono fatto la palla e sono andato lì. E lui era lì. Ho capito tutto il discorso tuo, Claudio, però è un'altra persona di quella che sto dicendo io, assolutamente sicuro. Infatti non riesco a capire chi sia, ma anche non c'è forse famiglia che c'è stata pochissimo in questa parte. Ora non lo so, non mi ricordo neanche che anno era, però io ero arrivato da poco qua. Non so se ero 86, 87, qualcosa del genere. Però mi ricordo perfettamente di questo fatto che lì con Antonella avevamo scoperto che praticamente c'era gente che trasmetteva ed erano tutti dalla stessa casa, tutti, e poteva essere 10 persone, ogni giorno ci andava uno e parlava lì, quindi l'antenna è sempre la stessa perché non ce n'erano altre antenne, lì antenne non ce n'erano altre, c'era solo questa ed era una tela con tanti radiali, poi ne ha perso tutte, insomma è diventato molto nel garage, però l'antenna era quella, il prato era quello. Io lì. Non ce n'erano altre antenne, perché io ho controllato tutto dalla lazzetta, c'era solo quell'antenna e parlavano tutti da lì, a turno, 3, 4, 5 persone, ogni tanto cambiavano modulazioni, secondo me aveva un casino in chiedere lì tanto meglio. Faccia pagarmi il fuoco, voglio capire chi sia il fattore qua, però con la risoluzione io non può essere assolutamente, perché è una persona, diciamo, molto riservata e non era sicuramente gente di quello che state dicendo voi. Guarda, io mi ricordo che la madre era in un canale e la figlia dall'altro e si prendono più una colpa, no? Tutto un tratto e succedeva un casino, era da ridere, io ho detto, cazzo, tu immagini che l'ho fatto, cazzo, questo fa la mamma, perché fa la figlia, non sa fare niente, non può, e non può essere questa cosa, e era vero, prima parlava con la madre, faceva la mangiava con la madre, e poi dopo l'altro giorno si sapeva un cazzo, poi quando stavo in un suo canale, e cadeva in dolceria. Stavo in fuoco, voglio capire, mi stava diventando una curiosità. Io me la ricordo ancora che ho fatto qua, perché quell'antenna è ancora lì. Però per la pena pizzolite, cioè, dove abiti tu proprio alla. Tu sei detto che sei all'ultimo, per la pena c'è il coso, Mario. Sapete c'è una parabola grande, cioè, soprattutto sul salito. L'antenna l'ho pensato dove c'è Mario, quella l'ho pensata io in casa sua. L'ho vista la parabola, quella che c'è su, quella sopra il tetto, quella grande col motore. C'è anche un altro FM, lì, un dipolo c'è. Ah, dove? Quella sala vuole sovvenire, cosa sta dicendo? Ma c'è anche un dipolo FM, lì, o sbaglio? No, ci sono due parabole, una 180 e una 120, e sono le mie. Qui c'è una multibanda. Sì, già l'ho vista, infatti. Quella all'interno, però, del cortile. Ma tu l'hai vista dove mi sono andata una grande? L'ho vista che ho messo l'antenna grande, io ti parlo un po' di anni fa, non ti parlo di adesso. Sono bello, non ci sta la casa di Mario. Ah, ma tu la cosa stai dicendo dove abitavo prima, tu stai parlando del dipolo per FM. Sì, no, adesso io dove abito adesso, ci sono due parabole grandi, tu dove stai dicendo? Vabbè, ma tu dove abiti adesso? Sopra Mario o cerca Mario? Io abito sotto a Mario, è il terrazzo, risulta sopra di Mario. Sono capito. Io prima abitavo nell'altro palazzo, sopra di dove lavoro, e di lì c'avevamo diciamo una stazione radio, e di lì c'avevo prima una collinare con quattro dipoli, da quattro poi ne ho montato uno soltanto. Aspetta, ma tu cosa hai sistemi roba di motori? Ho capito, scusa. Sistemi roba di motori. Sì, di macchine, non le carrozzerie, non motori. Sì, di macchine. No, adesso mi viene in mente. Se ti conosco. Sono andato io lì vicino e c'è un coso, c'è un'officina dove si trova un motore di moto. Ma di moto non c'è niente qua. Parliamo carrozzeria. Però non riesco a capire, si come fare a prendere tutto questo. Sì, che la faccio sapere, se l'altra di Mario l'ho pensata io quel palazzo, fino a finire di me le vuoi, se lo conoscere come sono i palazzi. No, ma come hai fatto a vedere l'antenna della FM? Mario non c'era ancora, come fai? Stiamo parlando di tanti anni fa. Sento soprattutto a pensare di andare a baracchina a Mario, poi mi sono visto tutta quella roba, gli ho detto, oh, la sabbugia, gli ho detto Mario, che è sul casino, è tutto piatto. Io non riesco a capire, boh, anche la FM l'ho buttata giù, era almeno 10 anni, di più 12 anni, 13 anni, lui non c'era ancora. Vedi, io le cose, gli antenisti le cose le sanno, mi sono proprio dedicato a fare nei palazzi e trovare antenne di cose di rimature, antenne di 27, di poi, guarda, se qualcuno si vuole comprare, c'è un'altra 180, se la vuole qualcuno, c'è anche il tripiede, quello grosso, per poggiarla. Un tripiede, eh? No, un tripiede grosso, di una bicchia, per montarla sopra, uno sta proprio per il palo, di fissaggio, c'è un tripiede enorme, per montare la 180. Ah, sì, vabbè, non è finito nessuno che lo dà la verità. Ti capisci, magari qualcuno è stato in campagna. Sì, sì, no, magari qualcuno può fare qualche impianto centralizzato con tante uscite, magari se lo mettere con l'affare lì può andare bene. Tutti gli accari che ghiaccio. Ho capito, ripeti, ti sento un po' bassino di radio. A Claudio ho detto di pigliare che è in bianco. Aspetta, spezziando, va, fanculo. Ecco. No, no, no, continua, continua, già sono qua io. Continua il computer, ma te, ma noi ci conosciamo, che lavoro fai tu? Ho capito, fai antenne, cosa fai? C'è un laboratorio, cosa fai? Poi che questo laboratorio sono, magari mi conoscerei anche, che problema per quello. Installatore bene. E io. Quanto tu lavori o al controllo principale? Adesso al controllo di casa mutua, perché sono fermo, però prima lavoravo, ho lavorato da Usai in Via dei Cani, ho lavorato anche da Prospero in Via dei Corsi, in via Pulizzetta. Conosci da Marco, come cavolo si chiama, ho lavorato anche lui da Usai. Sì, Massimo, Manuele. Marco. Marco, sì, quello di Chiovia. Diciamo di Chiovia, guarda. Aspetta, Marco, adesso mi viene la... con la M inizia. Manuele. No, no, Marco Marla. Sì, poi c'era Manuele, lì c'era poca gente che parla di secondo anni fa. Sì, sì. Ma tu fai solo installazioni di TV o anche parabole, cose varie? Tutta quella roba li facevo io. Io adesso la sto facendo. Sono fermo adesso. Fermo perché non vuoi lavorare o perché non ce n'è? No, perché non è che non ce n'è. Lavoro c'è, ma per altre cose. La faccia la porta più. Io conosco Mario, ma non so, sono la persona. Sì? Volevo mi ha detto, lo conosci, quello che sto parlando. Sì, che lo conosco, c'è il circolo. Conosci perché c'è il circolo, non per altro motivo. La conosco perché c'è il circolo, perché ci ho mangiato assieme, perché i baracchini hanno portato in macchina io, perché gli apparecchi in camera li ho portati tutti io, dove diciamo, la ditta lui, che lavorava prima, poi adesso ho abbandonato tutto. Tanti anni fa io avevo in mano i tassisti, i camion, tutto avevo in mano mia per la 27. Poi, viste come erano le cose, ho abbandonato tutto perché ci ho anche rimesso. Non ci ho guadagnato niente, la verità. Tra le passioni ci ho guadagnato proprio niente, anzi ci ho guadagnato l'escopo, di che altro. C'avevo il palco di CB sto a casa mia, e quindi l'escopo se veniva spesso a ammazzarmi. Dove abitavo io parlavo con la Certo Sardegna, con quello che uscivo, guarda, prima... La verità uscivo anche molto forte. Se l'ho avuto quello che c'ho adesso, sì, sei stato il numero uno minimo. Purtroppo ho avuto problemi da prima e quindi ho dovuto mandare tutto. Sì, che zona si vuole fare? Eh? Che zona abiti? Adesso abito al corso. Poi la seconda abitazione è vicino a casa tua, a Carbolati, che la vedi? Se tu guardi dove c'è il... come si chiama l'ospedale che c'è qui su, via Carlo Felice, io sono proprio di fronte dove c'è scarpa, dove c'è il rivolto di scarpa c'è l'antenna io, c'è solo una, non ce n'è altra, dove c'è il montelaggio. Io non capisco la zona, e c'è un'antenna grossa, non so fatto caso con l'antenna. Sì, l'ho fatto turbo, già c'è un giorno, già c'è un po' di anni. Ma se sarà solo nuovo di fronte a quello che sarà facendo scarpa nuovo, quello di mezzo. Mi ha parlato l'uomo di fronte al sanatorio, che adesso hanno costruito una parte là avanti, quindi ha fatto quella. I servizi di sua Claudio, sono arrivati di risultati a Russia. E lì siamo in tutti, siamo io, che sono di fronte al sanatorio. Poi sono trattati di me, c'è il Giacomo Fantomas, poi c'è Claudio, e a quanto mi Claudio c'è che non abbia, che non ci modula più, c'è cosa, come si chiama, non mi ricordo più, è un attivo, c'è un altro, siamo pochi più vicino. Una zona buona, quindi c'è quell'altro, quindi c'è appunto buona, grazie. Buona ce l'avevo quello prima, dove abiti è alto, quello sì, però c'è una continuità di ore, dove mi tappa. Ho purtroppo non devo fare niente, vado la linea, ho finito. Ti sei abbassato? Stiamo abbassando tutti i modi di segnale tu, lo sai? Sì, con le batterie si stanno caricando, con la linea rossa. Per la pizza, bisogna dire valente. Non ci hanno proprio fatto tutto questo. Claudio. Maria. Sto congiurando questa dottor Ricevitore. Allora sono questi, sono 10, 12. Un po' più grande sta la lì. Tu mi sai che ti compri la casa vicino a me? Perché? Tu se continui così a pensarti a parecchi. Sai che ti compri la casa di fronte a casa mia. Sì, ma lo tuo, per carità, guarda. È una rottura. La twitta contro ogni misura di questa radio, volevo, non riesco a trovarla, non riesco a trovare le misure di questa radio. Se uno se lo può comprare, un similare cosa si deve prendere? Che modello c'è? È Alfa su 2000 devi prendere. È inferiore a quello? Sì, inferiore. Superiore alla grande, è un digitale, è un DSP, è un 5 grande, è un altro pianeta, però problema è ormai va meglio sempre questo. Da passare. Lo passava l'uomo con la palazza? Quando è uscito era intorno ai 3 milioni quasi. La città era bassa, e lo sta dando 4,40, cioè quanto vedo, 400? Io correvo a 450 euro, non di più. Non sai fare, non c'è un filo di QRM in questa radio. Molto selettiva, Franco. Te l'ho detto, molto selettiva. Io in 40 metri, quando c'erano segnali bassi, ascoltavo comunque la lì. Era molto selettiva. Allora mi stai dicendo di cliccare dove? Informazioni. Qui c'è il miglior offerente. Devo cliccare lì. Grazie. Ma allora c'è la pellina. No, no, ma ci sotto proprio. Guarda, che ogni volta diventa una manina. Ci clicchi e ti fa vedere la lista. Ah, ecco, ci ho cliccato. Ci ho cliccato, vediamo cosa mi dice di questo. Perché mi interessa, c'è un amplificatore. C'è un amplificatore bellino. Eccolo qua. Utilizzo il 36. Profilo 30 di Bumba. Negli acquisti, dai venditori, lasciati per gli utenti, come i clienti, e lo devo fare in ovvia. Guarda, non sa come era la lista delle offerte che ci sono state. Utenti che hanno lasciato un fermetto, negativo, vero. Tutti i fermetti positivi, ulteriori informazioni, tiro dell'offerta, mi dico, puntito, perché non lo questa mai. Acquistato, vero. Ah, ecco, ci sono, acquirente, prenditore, acquirente, hai capito? Sì, c'è tutta la lista. Ah, ora c'è il carbonato. Da un all'altro. Non ci sono i prezzi qua, qui ci si dà i nomi degli acquirenti, e blu, gatto, oggetto, sempre lo stesso. Guarda la cronologia, Claudio, tu ti stai guardando i feedback di quegli acquirenti, la cronologia ti dà l'offerta dalla prima fino all'ultima, ti dice a che ora è stata fatta e quanta l'offerta. Cronologia, tutto lo bene. Registrati, mappa, recito, commenti, aiuto, mio dio, vendi, compra, vendo, compro, punteggio, vabbè, dati acquisti, dai venditori, lasciati per gli utenti. Tanto sotto dove c'è scritto la scadenza, dove c'è l'oggetto, eccetera, eccetera, c'è scadenza, schiaccia di lì, venditori, cioè non venditori, scusa, acquirenti, schiacci sopra e poi ti esce prologia. Dagli acquirenti, così è. Va alla pagina dove c'è scritto quando scade il migliore acquirente, sopra quello lì devi schiacciare, migliore acquirente, schiacciaci sopra. E ci ha schiacciato, è malato questa cosa. Mi sembra strano, perché vorrebbe dare la lista. Un cacchio esce. non diventa ritto, vuol dire non si può cliccare. Come mai di sana, ma questa storia l'ho fatto sempre io, per vedere. Anch'io, aspetta un secondo, vai che mi collego. Clicca, clicca, clicca. Cambio apparecchio, poi se non ce la dico, affancura. Ma Mario, se n'è andato Claudio? Sì, io aveva chiuso presto di macchina. Non clicca il mouse e... quando si trova in via no, non diventa ritto. Ma che è tu di cui? Quindi non beh, ripeti. Come è fra? A Vittorio, adesso quello che devo parlare io. Sei intrippato pure tu? Non ho detto bene, il computer è acceso, ho capito. Quindi adesso prima di farvi conoscere, sì, a posto. Vabbè, se ci sono riuscito. Beh Claudio, non ti dà su cronologia, non ti appare la manina. Vabbè, io faccio un altro tipo di linea, non so se dipende dalla linea, boh. Facciamo non mi fai entrare, la ragazza sua. Sì, sì, sì. E non ci... Ah, è la cosa, il virus, aspetta. Andai. Occhio, Claudio, tu cerchi di mettere un antivirus di quelli autogiornati. Dal computer, l'hard disk me l'ha partito per un virus, ha fatto un danno allucinante. Ascolta Robert, ma ti chiamo la Sicilia. Perché la mia partita, cacchio, perché non so se cacchio ha combinato, non c'era più niente da fare. Guarda, l'unica cosa che può fare il virus è formattare il disco. E boom, si cadeva un disco, allora non me la metto cosa è successo, comunque aveva fatto un danno, ho dovuto sostituire un pezzetto, non mi ricordo cosa. Deve essere crepato. Quella era una coincidenza. Era una coincidenza, Robert. Il virus ci credi tu mi chiamano in crepa. Da pentirtimi, non c'era più niente da fare. Non ha cambiato, ma ha sostituito. Adesso non mi ricordo se era l'hard disk o cosa cavolo era. Sì, comunque già ce l'ha. Che cosa ce l'ha? Antivirus ce l'ha. Mi ha messo questo allucinante che come si chiama, c'è auto al giorno, ogni tanto devi entrare, ti va tutte le violazioni, ti dice se ci sono state delle sabotaggi eccetera eccetera, tutta una pagina che fa un po' prima di aggiornarsi. Quindi no, spero che c'è il nostro, però non so che versione sia. Io già attraverso il video finito. La cosa è che ti rallenta parecchio, però ho visto che adesso problemi non ce ne ho più. E le ho risolto tutti i problemi che ho avuto. Cambiamo la guerra. Io non è entrato uno in officina, in quello d'officina entravano pagine al nastro, però quello è stato tolto subito perché era una cosa semplice. Ma l'altra volta non c'è stato niente da fare, abbiamo dovuto disinstallare tutto quanto, di fare tutto da capo. E poi è successo quel problema, non mi ricordo che cosa era, se era il disco o cosa. Questi virus, i soldi che si fanno, se non ci sono virus, non ci sono antivirus, quindi la loro come faccio? Già lo credo, già. Chi fa i virus fa anche gli antivirus, è logico. Io faccio così, guardi, qua c'è un virus, ci vuole un antivirus. Tecnici, quale ci vuole anche una nuova, e invece sono magari anche fatto da cambiare. Cambia tutto, faccia prima. No, mio padre cosa ne ha messo di antivirus? La buffa, insomma, è un antivirus tedesco. No, non lo posso assolutamente. Perché no, sono problemi là. Sì, lascia perdere. Io sono in casa con un simante, come sai? È stato violato quello che ho io. Disinstallati tutto, no ma guardi, disinstallati tutti che l'ho fatto io. un sacco di cose strane, e ci riare. Poi non so se poi ti sei roba di meglio. Ma scommetti che se io prendo e farò quello che dico io ti trovo il virus dopo la tua macchina. Bruno, questo non è che me lo intenda. Ma te lo dico io, nessuno ti il virus ho trovato io dentro la cartella di moto. Tutto il banco, banco la cartella dell'antivirus. Quindi non ci va a cercare lì, capito? Invece sì. Il discorso di inviolabile non esiste niente, entrano dentro le carte di credito e non possono entrare in una cosa del genere. Purtroppo quando inventano la cosa trovano subito la scappatoia agli altri. Non è così, la radio ci sono entrati nel coso di comando delle Olimpiadi. Non è niente di inviolabile, entra dentro le banche e non può entrare. Basta trovare un grande programmatore, uno che ha un po' di corso. L'intelligenza riesce a violare tutto, hanno violato le schede, quelle di Sky, eccetera, eccetera, non può entrare un antivirus. E io c'è sempre computer, fa tutto a mano. Ma il problema non è solo l'antivirus, secondo me è quel programma di Sky che gli ha i problemi. Guarda, il Sky è uno, al momento, secondo me è un distrotto, l'antivirus più validi. Il problema è che mi ha saputo configurare. Vabbè, però non lo so io. Io con l'altro che avevo prima, col vecchio Windows 98, tutti questi problemi che ho con questo non mi sono mai capitati. Vabbè, è normale che non ci siamo entrati in opera, ma se tu quindi ce ne sono, bravi ce ne sono, perché è così, e tutte le cose sono così. Come la una scuola nuova, hanno i loro difetti, i loro pregi, e poi si va. Insomma, l'Emilio, no? Però con il 98 resettavi, non succedeva niente. Qua invece succedono problemi molto più gravi. Si blocca tutto gas. Ma il problema non è fatto di Windows 98, quindi il problema è internet. Quando tu non usi la linea telefonica, il computer guarda al 99%, qualsiasi sistema operativo tu usi, va sempre bene. E al momento che tu ti colleghi a internet, la macchina comincia a fare. Quello sicuramente influisce parecchio. Influisce sì. Fabio, io che faccio lì? Stavolando questo Inter che Multicom. Aspetta, ma Luca Ribba non c'è? Luca, ci sei? Se senti non sto facendo il radio. Ho capito, guarda, questo versione, il Multicom. Frequentina, tu, di che cosa mi ci va? Non sta dando quello Multicom, là. Qua ci sono tre versioni Multicom, questa è la versione 497. Intec Multicom, bella. Non la conoscevo. Tanto. Quanto? Qui sono di costa. Bella però, se il 497 ce l'ha Luca, ma la prendo subito. 11 offerte ci sono qua. Non ti serve un fatto meco, ti serve, 200 euro. Ma devo sto cercando. Ci vedo su internet, su corso. Basta salire in telefonotto, verso l'attore, dove c'è il taxi, e io l'ho subito. Con microfono amplificato. 200 euro, ed è buono, tu l'hai visto? È nuovo, nuovo. No, bisogna dirlo alla Gianni, lo sta cercando, perché lui non si fida a prenderlo su eBay. Ma se lo sta vendendo. Sì, sono più fissato, ma se andarci tutti i giorni. Andiamo a fare una partita a bocce. E così vede questo parecchio. Dico, come mai se lo sta vendendo? Sono stati usando quasi 7 anni che non entra. Ah, capo. E l'altro stato me, come per quello non è bello, però quello c'era Roberto Pinna. È stato becco nuovo, nuovo. Ma è stato usato 4 volte e basta. In zona di testa lo chiede, con la farà. Cazzo, chiede sì. Io mi ricordo stavo vendendo parecchio tempo fa. Quindi, io volevo mi sento a 400 euro, io mi sono 200 euro adesso. 400 euro le volevo. 400 euro voleva, il lire, io sono 200 euro adesso. Magari anche calato, 350, 300, come ne so. Perché io ho in campagna tutto il completo per fare un coso. Io avevo la metà della roba, l'ho già fatta. C'ho la roba militare, capito? Quella per poter installare un coso missilistico. E c'ho in campagna. Senta, di installare cosa? Cosa missilistico, se vuoi sapere. Cosa missilistico? Cosa di fare una missilistica? Una lampa per un missile, vieni, c'è tutto completo. Grazie, è caldo. La metà roba è già fatta. C'è un coso, è un, come si chiamano, quelli a fare i tondi. Sembra un bocciolo di filo. E invece un radar. Ma te lo vado a fare questa roba? Un amico mio l'ha dato. Beato, a zero. L'aeroporto militare. Ah, ce la fa. C'è anche chi tira imitatori, fatti da loro. Signori, riprendo io, come sono la nonna. Salutoni e buon di proseguo. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte. Ciao, ci sentiamo. Ciao Franco. Ci sentiamo, ma tanto anche io adesso chiudo. Ah, chiudo adesso. Se no poi mi chiamano, vi saluto la macchina, tanto profilando anche il computer. Ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao ciao. Chiudo adesso il tuo comandamento di chiare sono, chi sarà la voce? Buonanotte 5. Chi sarà la faccia? Mamma mia, che esce domani, se no. Di nuovo ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao vabbè, ciao anche a te, ancora, ci sentiamo domani, dai. Ci sentiamo per l'audio. D'accordo. Anzi, forse in persona. La sono lassù domani, quindi. Ci vediamo lì al limite. Grazie a Maria, ciao.